L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino. Musiche di Bruno Nicolai. Regia di Nanni De Stefani. Sedicesima puntata. La discordia in campo da Gramante. Lettura poetica di Giancarlo Sbragia. Narratore Gianni Bonagura. Re Agramante è stretto d'assedio nei suoi quartieri dagli eserciti di Carlo Magno. Come farà a resistere se i suoi migliori campioni sono sparpagliati per la Francia? Manda messi a raggiungerli, ordinando loro di tornare al più presto. Ma non ha fatto i conti con la Discordia e sua sorella la Superbia, che sono state sguinzagliate dall'arcangelo Michele col preciso intento di seminare zizzania tra le file saracene. Primo motivo di contesa è Doralice, la fidanzata di Rodomonte rapita da Mandricardo. Dopo che Mandricardo aveva trovato la spada d'Urlindana gettata via da Orlando impazzito e per appropriarsene aveva ferito a morte in duello il buon Zerbino, ecco che gli si para davanti Rodomonte. La lotta tra il re d'Algeri e il re di Tartaria consiste in una gragnuola di busse d'una violenza e intensità che solo può immaginarsi tra quei due campioni della forza bruta. Eppure è condotta con un'esattezza tecnica perfetta, coi due cavalli che si fronteggiano girando a vite in un cerchio desiguo raggio, come se l'area per il combattimento la dovessero pagare a un tanto per centimetro quadrato. Mandricardo si prende sulla testa un colpo di spada vibrato a due mani che gli fa vedere tutte le stelle, ma torna a saltar su con l'elasticità d'una balestra e restituisce il colpo a Rodomonte finché un fendente non decapita per sbaglio il suo cavallo. Avuto ch'ebbe la battaglia il fine che già v'ho detto, il giovin si raccolse alle fresche ombre e all'onde cristalline. E dal destrier la sella il freno tolse e lo lasciò per l'erbe tenerine del prato andar pascendo, ove egli volse. Ma non stè molto, che vide lontano calar dal monte un cavaliero al piano. Conobbel, come prima alzò la fronte Doralice, e mostrollo a Mandricardo, dicendo: «Ecco il superbo Rodomonte, se non m'inganna di lontan lo sguardo. Per far teco battaglia cala il monte, or ti potrà giovar l'esser gagliardo. Perduta avermi a grande ingiuria tiene, che era sua sposa e a vendicarsi viene. Qual buona stor che l'anitra o la ceggia, starna o colombo similaltro augello venirsi incontra di lontano veggia, leva la testa e si fa lieto e bello, tal Mandricardo, come certo deggia di Rodomonte far strage e macello, con letizia e baldanza il destrier piglia, le staffa i piedi e dà alla man la briglia. Quando vicini fursi, cudir chiare tra lor poteansi le parole altiere, con le mani e col capo a minacciare, incominciò gridando il re d'Algere, che a penitenza gli faria tornare, che per un temerario suo piacere non avesse rispetto a provocarsi lui caltamente era per vendicarsi. Rispose Mandricardo: «Indarno tenta chi mi vuole impaurir per minacciarme, così fanciulli o femmine spaventa, o altri che non sappia che siano arme, me non, cui la battaglia più talenta ad ogni riposo, e son per adoprarmi a pie, a cavallo, armato e disarmato, sia alla campagna o sia nello steccato. Ecco, sono agli oltraggi, al grido, all'ire, al trar dei brandi, al crudel suon dei ferri, come vento che prima appena spire, poi cominci a crollar frassini e cerri, e tindi, oscura polve, in cielo aggire, indi gli arbori svella e case a terri, sommerga in mare e porti ria tempesta, che il gregge sparso uccida alla foresta. De duo pagani, senza pari in terra, gli audacissimi cor, le forze estreme parturiscono colpi, ed una guerra conveniente a sì feroce seme. Del grande e orribil suon triema la terra, quando le spade son percosse insieme. Gettano l'arme insino al ciel scintille, anzi lampadi accese a mille, senza mai riposarsi o pigliar fiato. Dura fra quei due re l'aspra battaglia, tentando ora da questo, or da quel lato aprir le piastre e penetrar la maglia. Né perde l'un, né l'altro acquista il prato. Ma come intorno sian fosse o muraglia, o troppo costi ogni oncia di quel loco, non si parton d'un cerchio angusto e poco. Fra mille colpi il tartaro una volta colse a due mani in fronte il re d'Algere, che gli fece veder girare in volta quante mai furon fiacco le lumiere. Come ogni forza all'African sia tolta, le groppe del destrier col capo fere, perde la staffa ed è presente quella che cotant'ama per uscir di sella. Ma come ben composto e valido arco di fino acciaio in buona somma greve, quanto si china più, quanto è più carco, e più lo sforza a martinelli e lieve, con tanto più furor, quanto è poi scarco, ritorna e fa più mal che non riceve, così quello african tosto risorge e doppio il colpo all'inimico porge. Rodomonte, a quel segno ove fu colto, colse appunto il figliol del re Agricane. Per questo non poté nuocergli al volto, chi in difesa trovò l'arme troiane, ma stordì in modo il tartaro che molto non sapea se era vespero o dimane. L'irato Rodomonte non s'arresta che mena l'altro e pur segna alla testa. Il cavallo del tartaro, ch'abborre la spada che fischiando cala d'alto, al suo signor con suo gran mal soccorre, perché s'arretra per fuggir d'un salto. Il brando in mezzo il capo gli trascorre, ch'al signor, non a lui, movea l'assalto. Il miser non avea l'elmo di Troia come il padrone, onde convien che muoia. Quel cade, e Mandricardo in piedi guizza non più stordito e Durindana aggira. Veder morto il cavallo entro gli adizza e fuor divampa un grave incendio d'ira. L'African per urtarlo il destrier drizza, ma non più Mandricardo si ritira che scoglio far soglia dall'onda, e avvenne che il destrier cadde ed egli in piedi si tenne. L'African, che mancarsi il destrier sente, lascia le staffe sugli arcion si ponta e resta in piedi e sciolto agevolmente, così l'un l'altro poi di pari affronta. La pugna più che mai ribolle ardente, e l'odio e l'ira e la superbia monta, ed era per seguir, ma qui vi giunse in fretta un messagger che gli disgiunse. Il messaggero di re Agramante, venuto per ordinare ai due contendenti il ritorno al campo, non osa dividerli, per paura di andarci di mezzo lui. Preferisce rivolgersi a Doralice, la quale riesce a convincerli di rimandare la contesa. Mandricardo, rimasto appiedato, vede in un prato Brigliadoro, il destriero d'Orlando, che, abbandonato dal padrone pazzo, se ne andava per conto suo brucando erbette. Monta in sella e insieme al rivale e alla donna contesa cavalcano verso il campo d'Agramante. Per via incontrano una donna bella e robusta, in compagnia di quattro cavalieri cristiani. Mandricardo decide d'abbattere i cavalieri, conquistare la donna e offrirla a Rodomonte in cambio di Doralice, saldando così il suo debito. Riesce a metterli fuori combattimento tutti e quattro. «Adesso sei in mia mano», fa la donna. «In tua mano un corno», risponde lei. «Sappi che io sono la guerriera Marfisa e so difendermi da me, armi alla mano». Marfisa indossa l'armatura, monta in sella e incrocia la lancia con Mandricardo. Lui crede di disfarsene in 4 e 4/8, invece trova quel che si dice un osso duro. Ma Rodomonte, che fino allora era stato in disparte, come se la cosa non lo riguardasse, salta su. «Eh no, non vale. Avevamo interrotto il nostro duello per correre in soccorso d'Agramante. Se ci si rimette a duellare, è il nostro duello che va portato a termine per primo». «In soccorso d'Agramante», esclama Marfisa. «Voi due siete dell'esercito saraceno. Allora siamo commilitoni. Andiamo tutti insieme a dar manforte al nostro re». S'avviano. Ma sulla loro strada si para Ruggero, che cercava Rodomonte perché questi s'era impossessato del suo cavallo Frontino. Con Ruggero anche Mandricardo aveva una questione, che verteva sul diritto di portare come insegna l'aquila bianca d'Ettore di Troia. Ne nasce un intrico di liti difficili da sbrogliare. Somiglia a quando viene l'alluvione in Val di Po e se si chiude un argine, la piena esce fuori da 10 altri sbocchi. I quattro saraceni cominciano a battersi tra loro per stabilire chi di loro doveva o non doveva battersi con gli altri. Ci si mettono di mezzo anche i quattro cavalieri cristiani, che erano stati disarcionati da Mandricardo. Uno di loro era un gran mago, Malagigi. Con un suo incantesimo fece indemoniare il cavalluccio di Doralice, che partì a corsa folle con la principessa di Granata in groppa. Al veder sparire l'oggetto della loro contesa, il re d'Algeri e il re di Tartaria corrono a inseguirla, e Ruggero e Marfisa tengono loro dietro. Così, tutti insieme, finalmente s'avviano verso il campo d'Agramante. Seguì a Ruggero in fretta il saracino per l'orme che apparia nella via piana. Ma non lo giunse prima che vicino con Mandricardo il vide alla fontana. Già promesso s'avean che per camino l'un non farebbe all'altro cosa strana, né finché al campo si fosse soccorso a cui Carlo era presso a porre il morso. Quivi giunto Ruggero, Frontin conobbe, e conobbe per lui chi addosso gli era, e sulla lancia fe le spalle gobbe e sfidò l'African con voce altiera. Rodomonte quel dì fe più che Iobbe, poiché domò la sua superbia fiera e ricusò la pugna ch'avea usanza di sempre egli cercar con ogni stanza. Il primo giorno e l'ultimo che pugna mai ricusasse il re d'Alger fu questo. Ma tanto il desiderio che si giugna in soccorso al suo re gli pare onesto, che se credesse aver Ruggier né l'ugna più che mai lepre il pardo isnello e presto, non se vorria fermar tanto con lui che fesse un colpo della spada o due. Aggiungi che sapea che era Ruggero che seco per Frontin facea battaglia, tanto famoso ch'altro cavaliero non è ch'appar di lui di gloria saglia, l'uom che bramato ha di saper per vero esperimento quanto in arme vaglia, eppur non vuol seco accettar l'impresa, tanto l'assedio del suo re gli pesa. 300 miglia sarebbe ito in 1000 se ciò non fosse a comperar tal lite, ma se l'avesse oggi sfidato Achille, più fatto non avria di quel che udite, tanto a quel punto sotto le faville le fiamme avea del suo furor sopite. Narra a Ruggier perché pugna rifiuti, ed anco il priega che l'impresa aiuti, che facendol farà quel che far deve al suo signore un cavalier fedele. Sempre che quest'assedio poi si leve, avran ben tempo da finir querele. Ruggier rispose a lui: mi sarà lieve di ferir questa pugna finché delle forze di Carlo si traggia Agramante, purché mi rendi il mio frontino in ante. Se di provarti che hai fatto gran fallo e fatto hai cosa indegna ad un uom forte d'aver tolto a una donna il mio cavallo, vuoi ch'io prolunghi finché siamo in corte? Lascia frontino e nel mio arbitrio dallo. Non pensare altrimenti ch'io sopporte che la battaglia qui tra noi non segua, o ch'io ti faccia sol d'un'ora triegua. Mentre Ruggero all'African domanda o frontino o battaglia allora allora, e quello il lungo e l'uno e l'altro manda, né vuol dare il destrier né far dimora, Mandricardo ne vien da un'altra banda e mette in campo un'altra lite ancora, poiché vede Ruggero che per insegna porta l'augel che sopra gli altri regna. Nel campo azzur l'aquila bianca avea, che dei troiani fu l'insegna bella, perché Ruggier l'origine traea dal fortissimo Ettor portava quella. Ma questo Mandricardo non sapea, né vuol patire, e grande ingiuria appella che nello scudo un altro debba porre l'aquila bianca del famoso Ettorre. Portava Mandricardo similmente l'augel che rapì in Ida Ganimede, come l'ebbe quel dì che fu vincente al castel periglioso per Mercede, credo vi sia con l'altre storie a mente, e come quella fata gli lo diede con tutte le bell'arme che Vulcano avea già date al cavalier troiano. Altra volta a battaglia erano stati Mandricardo e Ruggier solo per questo, e perché caso fosser distornati io non dirò, che già v'è manifesto. Dopo non s'era mai più raccozzati se non quivi ora, e Mandricardo, presto visto lo scudo, alzò il superbo grido minacciando, e a Ruggier disse: io ti sfido, tu la mia insegna temerario porti, né questo il primo dì ch'io te l'ho detto, e credi, pazzo, ancor ch'io te il comporti per una volta ch'io t'ebbe rispetto, ma poiché né minacce né conforti ti pon questa follia levar del petto, ti mostrerò quanto miglior partito t'era d'avermi subito ubbidito. Come ben riscaldato arrido legno a piccol soffio subito s'accende, così s'avvampa di Ruggier lo sdegno al primo motto che di questo intende. Ti pensi, disse, farmi stare al segno, perché quest'altro ancor meco contende? Ma mostrerotti ch'io son buon per torre, frontino a lui, lo scudo a te de torre. Un'altra volta pur per questo venni te qua battaglia, e non è gran tempo anco. Ma d'ucciderti allora mi contenni, perché tu non avevi spada al fianco. Questi fatti saran, quelli furcenni. E mal sarà per te quell'augel bianco, cantico e insegna è stata di mia gente. Tu te l'usurpi Io il porto giustamente. Anzi, tu usurpi tu l'insegna mia, rispose Mandricardo, e trasse il brando, quello che poco innanzi per follia aveva gittato alla foresta Orlando. Il buon Ruger, che di sua cortesia non può non sempre ricordarsi, quando vide il pagan che avea tratta la spada, lasciò cader la lancia della strada. E tutto un tempo Balisarda stringe la buona spada e me lo scudo in braccia. Ma l'africano in mezzo il destrier spinge e Marfisa con lui presta si caccia. E l'uno questo e l'altro quel respinge e priegano amendui che non si faccia. Rodomonte si duol che rotto il patto due volte a Mandricardo che fu fatto. Prima, credendo d'acquistar Marfisa, fermato s'era a far più d'una giostra. Or, per privar Ruggier d'una divisa, di curar poco il re Agramante mostra. Seppur, dicea, dei fare a questa guisa, finiam prima tra noi la lite nostra, conveniente e più debita assai, ch'alcuna di quest'altre che prese hai. Con tal condizion fu stabilita la triegua e quest'accordo che fra noi. Come la pugna teco avrò finita, poi del destrier risponderò a costui. Tu del tuo scudo, rimanendo in vita, la lite avrai da terminar con lui, ma ti darò da far tanto, mi spero, che non avanzerà troppo a Ruggero. La parte che ti pensi non avrai, rispose Mandricardo a Rodomonte. Io te ne darò più che non vorrai, e ti farò sudar dal pie alla fronte, e me ne rimarrà per darne assai, come non manca mai l'acqua del fonte, ed a Ruggero, ed a mill'altri seco, e a tutto il mondo che la voglia meco. Moltiplicavan l'ire e le parole, quando da questo e quando da quel lato. Con Rodomonte e con Ruggier la vuole tutta in un tempo Mandricardo irato. Ruggier, col traggio sopportar non suole, non vuol più accordo, anzi litigio e piato. Marfisa or va da questo, or da quel canto, per riparar, ma non può sola tanto. Come il villan, se fuor per l'alte sponde trapela il fiume e cerca nuova strada, frettolosa vietar che non affonde i verdi paschi e la sperata biada, chiude una via ed un'altra e si confonde, che se ripara quinci che non cada, quindi vede lassar gli argini molli e fuor l'acqua spicciar con più rampolli. Così, mentre Ruggero e Mandricardo e Rodomonte son tutti sozzopra, cognun vuol dimostrarsi più gagliardo e dai compagni rimaner di sopra, Marfisa ad acchetarli ave riguardo e s'affatica e perde il tempo e l'opra, che come ne spicca uno e lo ritira, gli altri due risalir vede con ira. Marfisa, che volea porgli d'accordo, dicea: signori, udite il mio consiglio, differire ogni lite e buon ricordo finché Agramante sia fuor di periglio. S'ognun vuole al suo fatto essere ingordo, anch'io con Mandricardo mi ripiglio e vo' vedere al fin se guadagnarme, come egli ha detto, è buon per forza d'arme. Ma se si deve soccorrere Agramante, soccorrasi, e tra noi non si contenda. Per me non si starà d'andare in ante, disse Ruggier, purché il destrier si renda, o che mi dia il cavallo, a far di tante una parola, o che da me il difenda, o che qui morto ho da restare, o ch'io in campo ho da tornar sul destrier mio. Rispose Rodomonte: ottener questo non fia così come quell'altro lieve. E seguitò dicendo: io ti protesto che s'alcun danno il nostro re riceve fia per tua colpa, ch'io per me non resto di fare a tempo quel che far si deve. Ruggero a quel protesto poco bada, ma stretto dal furor stringe la spada. Al re d'Alger come cinghial si scaglia, e l'urta con lo scudo e con la spalla, e in modo lo disordine e sbarraglia che fa che d'una staffa il pie gli falla. Mandricardo gli grida: o la battaglia differisci, Ruggero, o meco falla. E crudele fellon, più che mai fosse Ruggier sull'elmo in questo dir percosse. Fin sul collo al destrier Ruggier s'inchina, né quando vuolsi rilevar si puote, perché gli sopraggiunge la ruina del figlio d'Ulien che lo percuote. Se non era di tempra adamantina, fesso l'elmo gli avria fin tra le gote. Apre Ruggier le mani per l'ambascia e l'una il fren, l'altra la spada lascia. Se lo porta il destrier per la campagna, dietro gli resta in terra Balisarda. Marfisa, che quel dì fatta compagna se gli era d'arme, par che avampi ed arda, che solo fra quei due così rimagna. E com'era magnanima e gagliarda, si drizza a Mandricardo e col potere che avea maggior sopra la testa il fiere. Rodomonte a Ruger dietro si spinge. Vinto è Frontin, su un'altra gli inappicca, ma Ricciardetto con Vivian si stringe e tra Ruggero e il Saracin si ficca. L'uno urta Rodomonte lo rispinge e da Ruger per forza lo dispicca. L'altro la spada sua, che fu Viviano, pone a Ruger già risentito in mano. Tosto che il buon Ruggero in sé ritorna e che Vivian la spada gli appresenta, a vendicar l'ingiuria non soggiorna. E verso il re d'Alger ratto s'avventa, come il leon che tolto sulle corna dal bue sia stato e che il dolor non senta. Si sdegno ed ira ed impeto l'affretta, stimola e sferza a far la sua vendetta. Ruger sul capo al Saracin tempesta. E se la spada sua si ritrovasse, che come ho detto al cominciar di questa pugna di man gran fellonia gli trasse, mi credo che a difendere la testa di Rodomonte l'elmo non bastasse. L'elmo che fece il re far di Babelle quando muover pensò guerra alle stelle. La discordia, credendo non potere altro esser quivi che contese e risse, né vi dovesse mai più luogo avere o pace o triegua, alla sorella disse com'ai sicuramente a rivedere i monachetti suoi seco venisse. Lascianle andare e stian noi dove in fronte Ruggero avea ferito Rodomonte. Fu il colpo di Ruger di sì gran forza che fece in su la groppa di Frontino per cuoter l'elmo e quella dura scorza di ch'avea armato il dosso e il Saracino, e lui tre volte e quattro appoggia e ad orza piegar per gire in terra a capo chino, e la spada egli ancora avria perduta se legata alla man non fosse suta. Avea Marfisa a Mandricardo intanto fatto sudar la fronte, il viso e il petto, ed egli avea a lei fatto altrettanto. Ma sì lo sbergo d'ambi era perfetto che mai poter falsarlo in nessun canto, e stati era sin qui pari in effetto. Ma in un voltar che fece il suo destriero bisogno ebbe Marfisa di Ruggero. Il destrier di Marfisa in un voltarsi che fece stretto ov'era molle il prato sdrucciolò in guisa che non potea aitarsi di non tutto cader sul destro lato, e nel volere in fretta rilevarsi da Brigliador fu pel traverso urtato, con che il pagan poco cortese venne, sì che cader di nuovo gli convenne. Ruggier, che la donzella mal partito vide giacer, non differì il soccorso or che l'agio n'avea, poiché stordito da sé lontan quell'altro era trascorso. Ferì sull'elmo il tartaro, e partito quel colpo gli avria il capo come un torso, se Ruggier balisarda avesse avuta, o Mandricardo in capo altra barbuta. Il re d'Alger, che si risente in questo, si volge intorno e Ricciardetto vede, e si ricorda che gli fu molesto dianzi quando soccorso a Ruggier diede. A lui si drizza, e saria stato presto a dargli del ben fare aspra mercede, se con grande arte e nuovo incanto tosto non se gli fosse Malagigi opposto. Malagigi, che sa d'ogni malia, quel che ne sappia alcun mago eccellente, ancorché il libro suo seco non sia, con che fermare il sole era possente, pur la scongiurazione onde solia comandare ai demoni aveva a mente. Tosto in corpo a Ronzino unne costringe di Doralice ed in furor lo spinge. Nel mansueto ubino, che sul dosso avea la figlia del re Stordilano, fece entrare un degli angel di Minosso sol con parole il frate di Viviano, e quel che dianzi mai non s'era mosso se non quanto ubbidito avea la mano. Or d'improvviso spiccò in aria un salto che 30 piè fu lungo e 16 alto. Fu grande il salto, non però di sorte che ne dovesse alcun perder la sella. Quando si vide in alto gridò forte che si tenne per morta la donzella. Quel Ronzin, come il diavol se lo porte, dopo un gran salto se ne va con quella che pur grida soccorso in tanta fretta che non l'avrebbe giunto una saetta. Dalla battaglia il figlio d'Ulieno si levò al primo suon di quella voce, e dove furiava il palafreno per la donna aiutar n'andò veloce. Mandricardo di lui non fece meno, né più a Ruger né più a Marfisa noce, ma senza chieder loro o paci o tregue, e Rodomonte e Doralice segue. Marfisa intanto si levò di terra, e tutta ardendo di disdegno e d'ira, credesi far la sua vendetta ed erra, che troppo lungi il suo nemico mira. Ruger, ch'aver tal fin vede la guerra, rugge come un leon, nonché sospira. ben sanno che Frontino e Brigliadoro giunger non ponno coi cavalli loro. Rugger non vuol cessar finché decisa corre d'Alger non l'abbia del cavallo. Non vuol quietare il tartaro Marfisa, che provato a suo senno anco non hallo. Lasciar la sua querela a questa guisa parrebbe all'uno e all'altro troppo fallo. Di comune parer di segno fassi, di chi offesi gli avea seguire i passi. Nel campo Saracin li troveranno quando non possan ritrovarli prima, che per levar l'assedio iti seranno prima che re di Francia il tutto prima, così direttamente se ne vanno, dove averli a man salva fanno stima. Troppo presto la discordia aveva creduto compiuta la sua opera. S'era appena allontanata, fregandosi le mani con soddisfazione, ed ecco che le liti tra saracini erano state sospese, e il cavallo di Doralice in fuga riconduceva i campioni al loro quartier generale, rendendo possibile una grande vittoria maomettana sull'esercito di Carlo. L'arcangelo Michele, di fronte a un tale disastro, capisce che la discordia non ha fatto il suo dovere fino in fondo. Vola a cercarla e la trova nel solito convento, intenta alle diatribe per le elezioni dei dignitari dell'ordine. L'arcangelo Michele l'afferra per i capelli, la stende a terra a pugni e a calci, le rompe sulla schiena tutti i turiboli e i candelieri che trova sotto mano. La discordia chiede pietà e promette di non abbandonare il campo saraceno. Subito, attorno a Re Agramante, si affollano i guerrieri con le loro querele. Rodomonte ce l'ha con Mandricardo per via di Doralice, Mandricardo con Ruggero per via delle insegne troiane, Ruggero con Rodomonte per via di Frontino, Marfisa con Mandricardo perché voleva usarla come merce di scambio. Agramante è un re ordinato, fa scrivere i nomi delle coppie di contendenti su tanti bigliettini e sorteggiare i turni dei duelli. Poi fa preparare un regolare campo di giostre e indice il torneo al cospetto dei sovrani e delle dame dei dintorni. Tutto sembra seguire le norme previste dai regolamenti, ma la discordia continua a far soffiare i suoi mantici. Gradasso, che aiuta Mandricardo a mettersi le armi, vede che sulla spada c'è scritto Durlindana. Da tempo lui combatteva per impossessarsi della spada d'Orlando. Che ce l'abbia ora un altro non gli garba, e lo sfida a duello, turbando l'ordine delle precedenze e scatenando altre risse supplementari. Intanto Sacripante, che aiutava Rodomonte a salire in sella, riconosce il cavallo Frontalatte alias Frontino che gli era stato rubato da Brunello. Ne nasce un'altra lite, anzi due, perché contro Brunello è Marfisa che vuol far le sue vendette. Siamo in un mondo in cui non si perde mai niente, ma in cui nessuno è mai l'unico possessore di una cosa. Nella confusione della guerra, armi, cavalli, arnesi continuano a passare di mano in mano, ognuno d'essi col suo nome, la sua storia e le sue caratteristiche inconfondibili, e si porta dietro una coda di interminabili contese. La discordia può ben levare il suo grido di trionfo, un grido così alto da far tremare tutta Parigi, intorbidare la Senna, rimbombare la selva delle Ardenne. Abbiamo trasmesso la 16ª puntata dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino.